Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelly. La Germania avverte gli effetti della crisi, perciò è molto importante capire che se all'Europa le cose non vanno bene, neanche alla Germania possono andare bene. Così questa mattina Angela Merkel, cancelliere tedesco all'Assemblea dell'Industria BDI, la cancelliera ha ricordato che l'Europa è il ricettore principale dell'export tedesco. Ecco, queste comunicazioni che arrivano attraverso convegni, incontri pubblici ci ricordano quanto siano delicate queste ore invece a Karlsruhe, la città renana, dove appunto la Corte deve giudicare su quello che potrebbe diventare davvero un punto, uno snodo essenziale dell'architettura Europa del futuro. Oggi protagonista alla Corte il governatore della BCE Mario Draghi, ma sentiamo che cosa accade nel servizio di Sergio Nava. I have full confidence in the constitutional court. Mario Draghi entra in campo nella battaglia che si gioca da oggi a Karlsruhe con il primo giorno di udienza sullo scudo anti-spread. La misura monetaria di maggior successo degli ultimi tempi, l'aveva definita Draghi pochi giorni fa, e per non lasciare margini di incertezza il presidente della BCE è andato ieri in prima serata sul secondo canale tedesco ZDF a rassicurare la Germania in merito all'azione BCE. Nell'ambito del programma OMT non si è speso un solo euro fino ad ora, ha detto Draghi. Il rischio per i contribuenti tedeschi è oggi chiaramente diminuito rispetto a un anno fa. Draghi pone dei paletti, l'intervento di Francoforte ha dei limiti, non agiremo per assicurare la solvibilità di un paese, e dopo aver invitato le altre nazioni europee a fare riforme, così come le fece la Germania 10 anni fa, tocca il tasto più sensibile per Berlino, quello dell'inflazione. Garantisco che non sarà l'inflazione la via d'uscita dalla crisi, dice Draghi, raccontando l'Italia di 40 anni fa, con un'inflazione galoppante che erose in poco tempo buona parte dei risparmi anche della sua famiglia. Oggi primo round dell'udienza sullo scudo antispread alla Corte Costituzionale tedesca. Karlsruhe non si pronuncerà prima dell'autunno. Tecnicamente il suo parere non può affondare l'intero scudo, ma potrebbe seriamente metterlo in discussione riaccendendo così spread e mercati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione Industria dell'Unione Europea vara oggi il piano della siderurgia, che sarà poi discusso e approvato dal Parlamento Europeo. Naturalmente un piano che riguarda fortemente Terni, con la sua acciaieria in vendita da parte dei finlandesi, direttamente interessata a quanto l'asta è uno dei principali siti produttori di acciaio inossidabile. Ecco, al Parlamento Europeo si parla anche oggi in seduta plenaria di un tema molto delicato che è stato sollevato dallo scandalo spionaggio su internet degli Stati Uniti. Sentiamo. PRISM, il programma del governo americano per raccogliere informazioni personali degli utenti delle maggiori compagnie della rete, preoccupa l'Europa. Le rassicurazioni di Barack Obama ai cittadini statunitensi non si sono estese al resto del mondo. E questa è una falla che non può che gettare un'ombra sull'Europa. Oggi il tema è stato oggetto di discussione in plenaria. Salvatore Iacolino, vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo. Il tema è estremamente sensibile, ha bisogno di cautela e di prescrizioni che sono assolutamente doverose. Le libertà individuali non possono certamente essere penalizzate da un canto, dall'altro occorre trovare meccanismi concreti per garantire la sicurezza. Da Roma ne ha parlato anche il garante della privacy, Antonello Soro. L'Europa non è prigioniera di un'illusione quando tenta di fronteggiare questi mutamenti, e con la revisione complessiva delle norme in tema di protezione dei dati, che dovrebbe vedere la luce all'inizio del 2014, intende ribadire il ruolo centrale delle proprie regole, superando le notevoli resistenze che provengono da altri paesi e dalle corporazioni. L'Unione Europea, prima che su logiche di mercato, si fonda sui diritti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare l'opportunità proposta dalla sede milanese della rappresentanza in Italia della Commissione Europea di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di 3 mesi. Per la selezione si richiede la laurea e una buona conoscenza di almeno una delle 3 lingue di lavoro della Commissione, ovvero inglese, francese o tedesco. I tirocinanti verranno poi inseriti in uno dei 3 settori della rappresentanza: stampa, comunicazione e documentazione. Per partecipare è necessario inviare una lettera di motivazione e un curriculum aggiornato all'attenzione del direttore della rappresentanza, utilizzando il seguente indirizzo email: com/rep/1000@ec.europa.eu. E naturalmente ritrovate i dettagli su radio24.it. Per ora è tutto, un saluto da Paolo Corleone in regia, da Gigi Donelli al microfono. Europa 24 torna domani poco dopo le 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.